Palla Spicchi con Carlo Genta. Amici sportivi e soprattutto amici basketari, buonasera a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia per questo appuntamento con Palla Spicchi, che, lo ripeto ancora una volta, rimarrà fisso fino all'assegnazione dello scudetto, quindi giugno inoltrato. Mentre l'appuntamento del venerdì con Palla Spicchi avrà l'ultimo tempo, l'ultimo atto venerdì prossimo, prima di lasciare il campo ai mondiali di calcio e relativi speciali che avrò poi modo di presentarvi. Però adesso abbiamo la finale, le semifinali scudetto in Italia, abbiamo la finale NBA disegnata nella notte. Nella seconda parte del nostro programma ne parleremo ampiamente con Flavio Tranquillo, con Los Angeles che ha raggiunto Boston in finale per la sfida dei sogni, che farà felici naturalmente tutti i tifosi americani, non solo quelli dei Lakers e dei Celtics, ma soprattutto gli inquilini della NBA Tower di New York, per la finale che è in grado di risvegliare tutti i media. O mi sbaglio, Stefano Valenti, inviato di Superbasket e nostro amico? Ciao Carlo. Ciao. Buonasera, no, assolutamente così, scusate la voce poco radiofonica, ma io i playoff li perdo sempre 3-0 al primo turno con le allergie di stagione, quindi non ho ancora trovato l'assetto giusto per superare il turno. Siamo quindi in due, guarda, siamo in due. Però è vero, Boston, Los Angeles, soprattutto per i media, per gli ascolti, per chi investe capitali importanti in questo ambito, è la finale dei sogni, quella che ti permette magari di avere a fine stagione un attivo di cassa e non un passivo, quando, pur senza dar meno credito ai meriti di chi fin lì ha lottato per lo stesso obiettivo, non ha quei bacini d'utenza, di fascino, di storia delle due squadre che hai citato. Certo, è vero che c'era in ballo LeBron e l'assalto al suo primo titolo, però i Celtics sono un'altra cosa anche sul campo, onestamente, Stefano. Sì, senza dubbio, stagione ombre e luci, però come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, ed è quello, un po' quello che è successo. Insomma. Oppure mai sottovalutare l'orgoglio di un campione, possiamo andare avanti due giorni con le frasi fatte, sì, esatto, che i Celtics le autorizzano. Guardiamo le cose di casa nostra, Stefano. Dietro la mia personalissima lavagna, insieme a Roma, ci finisce anche la Virtus Bologna, che ho la memoria lunga, all'alba di questa stagione, allo stesso Minucci, ospite a questi microfoni, aveva detto: sarà il nostro principale rivale la Virtus Bologna. Non è stato così? No, allora, Roma dietro la lavagna assolutamente, perché questa è una stagione che ci ha dato dei verdetti di ranking e i playoff li stanno confermando in maniera netta, perché abbiamo le prime quattro in semifinale, la Virtus quinta, che comunque è stata la migliore sfidante delle teste di serie, Montegranaro sesta e insomma con Milano le tre partite se le giocate fino alla fine, Roma settima ma male, meglio Treviso da ottava, quindi con Roma, giudizio su Roma mi associo, la peggior perdente nel quarto di finale. Per quello che riguarda la Virtus, sono due anni un po', come dire, che hanno corso paralleli, anche quest'anno eliminazione al primo turno, anche quest'anno perso 3-2, anche quest'anno perso senza la capacità di andare a vincere fuori per ribaltare il fattore campo. Non so se la stagione della Virtus è così negativa, perché obiettivamente togliere a qualunque altra delle squadre ancora in lizza la guardia forte, la guardia titolare forte come Petteri Koponen quest'anno, obiettivamente è stato un colpo molto duro per una squadra che nelle tre partite giocate a Cantù non è mai stata capace di andare oltre i 66 punti di media. E questa ovviamente è una colpa grave, perché avendo l'obbligo di vincere una partita a Cantù, vincerla a 66 punti pensando che Cantù ne faccia meno di 70, effettivamente si fa fatica. Stagione con tanti problemi, alcuni magari anche accentuati da una piazza comunque difficile e ribollente come quella virtussina, quella bolognese. Non bisogna togliere i meriti a Cantù. Cantù ha giocato in casa le tre partite che doveva giocare, le ha vinte tutte e tre, ha perso un giocatore altrettanto importante come Ben Hofner, e quindi, come dire, se arrivare quarti ha un significato perché dà la possibilità di avere il vantaggio e il fattore campo, ecco, Cantù è stata brava prima ad arrivare quarta e poi a sfruttarlo. Probabilmente giocati in altro ambito, anche in campo neutro, forse la Virtus l'avrebbe portata a casa. Sì. Ha dimostrato di soffrire il pianella e Cantù ha dimostrato di avere nel pianella un alleato. Poi, certo, se vogliamo partare delle situazioni ambientali e soprattutto dei problemi di impiantistica, beh, l'Italia da due edizioni perde l'assegnazione di europei di calcio, noi abbiamo perso i mondiali del 2014 perché l'impiantistica sportiva italiana è ridicola. E poi quando ce li hanno dati, ad esempio europei di nuoto, chissà quando finiranno i processi, insomma, Stefano. Sì, però sai Carlo, poi dopo gli stessi personaggi che hanno creato un buco, se non sbaglio, di 9 milioni di euro, figurano sempre agli scranni importanti, quindi vabbè, facciamo perdere. Ma lo sanno anche all'estero, per quello che dicono, ma certo, chi c'è lì, chi c'è, esatto, chi c'è lì, esatto. No, forse è meglio che ripassate. Hai detto bene, all'estero lo sanno e ce lo fanno pagare, noi facciamo finta di niente, poi però abbiamo l'ambizione di candidarci e le nostre candidature finiscono quelle dietro quelle della Turchia. Per evitarci di farci il sangue troppo amaro, torniamo al basket giocato. Stefano, vorrei dirti, con la Virtus Bologna e Roma, insomma, si preparano entrambe a vivere un momento parallelo importante, perché secondo me entrambe devono decidere se provare a costruire da qui in poi o ricominciare tutto da capo. Lardo resta oppure va? Bonicioli resta oppure va? I giocatori e l'esperienza pregressa, quella di quest'anno, la usiamo per costruire il futuro oppure torniamo indietro e ripartiamo da zero? Io credo che ci sarà molta meno rivoluzione di quello che si pensi, anche perché le rivoluzioni non pagano, nel senso che Siena forse rivoluziona quest'anno al termine del terzo, quarto anno ormai, per non dire anche sesto, sì, comunque sì, di un ciclo ben definito, e rivoluzionerà alla fine forse anche meno di quel che ci si attende, anche se il cambio di regia è atteso. Le altre, rivoluzionando anno dopo anno, non raccolgono nulla di meglio che una finale da perdere in malo modo, quindi è evidente che la rivoluzione così non paga. Rivoluzione può essere di molti tipi. Il problema secondo me è che da noi non c'è una rivoluzione di organico che abbia una logica legata a quello che succede in ambito tecnico, cioè è solo la continuità tecnica che può indicare dove si può andare a mettere il tassello nuovo giusto in una squadra che comunque complessivamente ha un suo perché. Se ogni volta viene poi messo in discussione l'allenatore, in questo caso è chiaro che il nuovo allenatore ha le sue idee e propugna magari la strada del rinnovamento. Ora il rinnovamento diventa più complesso perché i giocatori costano sicuramente, sì, e non è la contingenza economica non è favorevole. Io dico che a Bologna Lino Lardo resta, come resta Massimo Faraoni general manager, perché questa è una squadra che l'anno prossimo comunque potrà contare su Andre Collins, su Petteri Koponen, su Victor Sanichidze e credo anche, contratto alla mano, su Michele Maggioli. È ovvio che qualcosa cambierà, la Virtus ha dimostrato anche sul mercato di aver pescato due elementi interessanti come Aaron Jackson e Christian Kangur, poi si tratta di vedere come questi giocatori che hanno mostrato cose interessanti possono entrare anche nelle nuove regole. La Virtus è orientata al 2+4 e quindi i due americani difficilmente potranno essere in coppia, Collins e Jackson. Per quello che riguarda Roma, anche qui Bonicioli ha chiuso la stagione dicendo questa è una stagione che negli anni a venire darà i suoi frutti perché tutti i giocatori italiani hanno fatto esperienza, sono cresciuti, sono migliorati, serve tempo e pazienza, vedremo se Toti ce l'avrà. Quanto alla conferma di Bonicioli, non mi sento di spendere le stesse parole che ho speso per Lardo, però ripeto, anche Roma è il momento in cui finalmente dia gli investimenti importanti di Toti in mano a un allenatore del quale c'è fiducia pluriennale, sì, per cercare di avvicinarsi o di essere, come si dice, abbiamo letto più volte, pronta a rilevare l'eredità di Siena quando Siena dovesse fare un passo indietro. Sì, che a parole è così, nei fatti è molto più difficile perché allenatore con fiducia pluriennale a Roma devo ancora vederlo. Grazie, esatto. Stefano, grazie. Grazie, ci sentiamo, a voi. Ci sentiamo ai prossimi giri di valzer con Pallaspicchi. Ricordo, venerdì prossimo, ultimo appuntamento stagionale col Pallaspicchi del venerdì per l'appunto, mentre questo appuntamento da domenica sera rimane fino a fine playoff, mondiali di calcio compresi. Gli appuntamenti per le finali invece li sapete, se non li sapete ve li ricordo io. Martedì si comincia con la semifinale di Siena contro Cantù. Mercoledì c'è Caserta contro Milano, si gioca al meglio delle 5 partite. Adesso ci fermiamo per il traffico e subito dopo ripartiamo dalla finale invece della NBA che la notte scorsa ha preso forma. Pallaspicchi. Ecco che torniamo dunque per cambiare argomento. Saluto subito il professor Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno. Io ho idea che nella NBA Tower qualcuno stia facendo festa ancora adesso per la finale che si è disegnata nella notte, o mi sbaglio? Ma no, non credo che tu ti sbagli, ma secondo me non so se lo stiano facendo, ma dovrebbero far festa, perché due serie che sembravano spentissime, le finali di conference invece hanno dato luogo veramente a tante, tante, tante belle cose. Flavio, come abbiamo detto venerdì, sembravano due carciofi, invece erano due fiori queste finali, semifinali, partite, queste finali di conference, partite in sordina, no? con due squadre che sembravano dominare, poi onore ai vinti, dobbiamo dire, Phoenix da una parte e Orlando dall'altra. Sì, onore ai vinti Orlando, perché comunque da 0-3 è riuscita più o meno a rientrare nella serie. Credo che l'episodio decisivo sia stata la prima partita, Orlando è arrivata piatta e Boston ha dimostrato che c'è una differenza, come diceva tra l'altro Alvin Gentry, tra essere un'ottima squadra e essere una squadra da titolo. Dall'altra parte Phoenix potrà recriminare per tanto, tanto tempo sui singoli episodi, a sua volta sulle prime due partite in cui hanno fatto due cicloturistiche, però anche lì alla fine c'è un motivo per cui i Lakers e i Celtics si ritrovano dal 2008, e tutto sommato lo scorso anno i Celtics non sono andati in finale, ma non hanno neanche giocato i playoff, li hanno giocati la loro imitazione. Certo, Flavio, ma secondo te per Orlando è una stagione da battezzare come una delusione, come una sconfitta dopo la finale dell'anno scorso? Alla fine hanno giocato una grande stagione, arrivavano come favoriti a questa finale di conference con Boston. Saranno arrabbiati, delusi oppure no? Ma sicuramente saranno arrabbiati e delusi, io non la considererei una sconfitta, non la considererei un disastro, questa è la nostra cultura per cui uno vince e tutti gli altri sono dei cialtroni, non è assolutamente così, il discorso è che quando sei nella condizione di Orlando e devi fare l'ultimo passo, quello è un ultimo passo difficilissimo da fare, perché l'ultimo passo te lo fanno fare solo due cose, ovvero sia i giusti leader e il tempo. Il tempo te lo devi dare, e questo comunque almeno è una condizione che comandi tu, se riesci a dartelo da tutti i punti di vista. È Howard un giusto leader per fare l'ultimissimo passo? Credo che questa sia la valutazione difficile da parte degli Orlando Magic, e poi c'è anche la valutazione sull'allenatore, però sono talmente piccole le cose che fanno la differenza tra fare questo famoso ultimo passo, che potrebbe essere per esempio una palla che finisce per caso nelle mani di Artest e va dentro. Si interrogheranno anche sul ruolo di alcuni giocatori, mi viene in mente Rashard Lewis, loro non cambieranno per ragioni contrattuali tantissimo nell'estate dei sogni, no? Nell'estate che tutta l'America aspetta, loro usciranno da quest'estate non molto diversi. Sì, hai fatto il nome più importante, cioè hanno dato 117 milioni a Rashard Lewis, giusto o sbagliato che sia, ormai gliel'hanno dati. Nell'NBA, quando fai una cosa del genere, ovviamente non è che se dovessi aver fatto un errore, dovessi valutare di aver fatto un errore, puoi dire vabbè, ho fatto un errore, lo cedo al Barcellona piuttosto che al Manchester United, te lo tieni. Se ti tieni Rashard Lewis devi giocare con quel sistema, perché non c'è un altro sistema per esaltare Rashard Lewis, e se giochi con quel sistema naturalmente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, non vincono il sistema ma vincono gli interpreti del sistema. Quella è la seconda cosa, assieme alla valutazione di Howard e di Van Gundy, sì, che è complessa per Orlando. Mentre Phoenix esce da questi playoff dove ha spremuto ogni possibilità, io credo. Guarda, lo so che non è politically correct, ma io esco col cuore che piange per Steve Nash e per Grant Hill, perché 36 anni e 38, uno ha appena giocato la 118esima partita della sua vita di playoff e non ha ancora assaggiato la finale, l'altro prima di questa stagione non aveva neanche mai vinto una serie. Sono secondo me due persone, prima che due giocatori, che vanno sostenuti da tutti i punti di vista, anche se non è politically correct. Questi però credo che l'ultimo passo non lo possano fare, e comunque per quel poco che capisco mi sembra che Stoudemire sia destinato ad andarsene, e quindi poi potrebbero anche aver toccato il punto più alto della loro parabola, per paradossale e triste che possa essere, con queste sei partite contro i Lakers. Certo, dando invece, cominciando a dare un'occhiata a questa finale, secondo me bellissima e giustissima, perché alla fine in questi playoff sono le due squadre, soprattutto Boston, quella che è cresciuta di più e quella in attesa in qualche maniera. È semplicistico dire attacco di LA contro difesa dei Celtics? Beh, a questo livello non è semplicistico, ma è limitativo. È limitativo perché queste sono le caratteristiche delle due squadre sicuramente, ma quando giochi per la finale, soprattutto questo tipo di finale, anche chi non è tanto portato o voglioso di difendere e difendere, anche chi non è un fenomeno ad attaccare, magari se per scelte tattiche degli altri ha più spazio del solito, magari ti piazza la partita da 15 o da 20 punti. Però è chiaro che queste sono le indicazioni che queste tre stagioni hanno dato sulle due squadra. Qual è stato secondo te l'interruttore che ha acceso Boston? Ma l'interruttore che ha acceso Boston è stato quello di riuscire a giocare planando la seconda parte della stagione regolare, dicendo tanto tra vincere 50, 55-58 non fa differenza, fa differenza invece avere Garnett e Pierce in condizioni almeno decorose per i playoff. Adesso ce li hanno in condizioni decorose e questo ovviamente può fare molta differenza. Invece per chiudere, Flavio, quali possono essere i dubbi di Los Angeles, grande favorita stagionale? Grande favorita, ma secondo me hanno molti, molti, molti più dubbi di quelli che si potrebbe pensare, soprattutto che loro vogliono far pensare di avere. Hanno dei dubbi perché hanno tremato contro Phoenix, hanno ballato più volte, perché hanno una situazione a livello di chimica sempre al limite, perché Bryant e Bryant nel benissimo, ma anche nella terrificante capacità di debordare della sua personalità, perché c'è la questione allenatore che resta, allenatore che va, allenatore che smette, allenatore che continua, perché ci sono tutti gli altri che anche loro hanno la loro personalità e vogliono il loro spazio, e perché è una difesa come quella dei Boston Celtics, non sono abituati ad affrontarla, e soprattutto la difesa dei Boston Celtics tipicamente all'interno di una serie mette lì delle informazioni che sono buone per la partita successiva. Direi Lakers 50,01, ma non tanto di più. Grazie Flavio, ne parliamo venerdì. Grazie davvero. Grazie dunque a Flavio Tranquillo, con cui abbiamo inquadrato la finale NBA che si è disegnata la notte scorsa. E adesso vorrei chiudere invece, sempre a proposito di NBA, facendovi risentire qualche battuta che abbiamo fatto con Danilo Gallinari, che per i nostri osservatori appassionati più attenti, venerdì era nostro ospite, è stato nostro ospite in Palla Spicchi. Dunque vi riproponiamo alcune frasi di Danilo Gallinari proprio per condire questi discorsi NBA e questa finale NBA che ci apprestiamo a vivere dalla notte di giovedì. Si parte a Los Angeles e si giocherà il primo atto di questa finale tra Lakers e Celtics. Danilo Gallinari. Io sono andato a Bologna con la Virtus come general manager nell'estate dell'88, quando Danilo è nato, e quindi ho visto lui, che tutti dicono lui a questo adesso che non so, 3 settimane di età, ok, era nella Carello, hai capito, con Marilisa, con Gallo, e quindi Gallo giocava per noi, ha fatto anche un buon anno, abbiamo vinto la Coppa Italia, e poi l'anno successivo Gallo era ancora Coppa Italia più la Coppa delle Coppe, quindi con Ettore Messina come allenatore in panchina, prima con Bob Hill la Coppa delle Coppe, cioè la Coppa Italia, poi con Ettore Coppa delle Coppe e Coppa Italia ancora, quindi... ho visto Danilo da bambino, e poi per diversi anni non l'ho visto giocare proprio a Pavia, è stata la volta dopo. A casa mia. Danilo, non potrà mai parlare male di te in telecronaca, Costan Peterson, eh? Come io non potrei mai parlare male del coach. Ascolta. Ma ogni tanto dico, va per tutti, ok? Sia Danilo che Bargnanis, perché sono lunghi, ok? Devono piegare le gambe o così, cioè non faccio critiche, faccio correzione, che è leggermente diverso, e le cose che vorrei vederle fare non è una critica assolutamente, e poi ovviamente Danilo sa tutto, che sta lavorando adesso velocizzare il tiro e soprattutto il palleggio precedente al tiro, perché l'NBA è tutto succede in una frazione di secondo, non un secondo pieno. Cosa ne pensi, Danilo? Ma sono assolutamente d'accordo, sono poi cose che anch'io so che devo assolutamente migliorare, e non una parola in più, non una in meno, ha detto insomma il coach tutto quello su cui bisogna migliorare, anche per le tempistiche e la velocità con cui si svolge il gioco NBA, che sono veramente attimi. Però il fatto di essere riuscito a terminare una stagione sicuramente dopo il calvario della prima ti ha dato anche fiducia, no? Il fatto di continuare a stare in campo, sì, occasioni. È stata una cosa importantissima anche a livello mentale, l'obiettivo era quello appunto di giocare tutte le 82 partite a livello fisico, ce l'ho fatta, e quindi anche mentalmente per la fiducia nei miei mezzi fisici è cresciuta ed è importantissima in visione anche delle prossime stagioni e della prossima stagione. Bene, chiudiamo qui il nostro appuntamento domenicale con Palla Spicchi. Torniamo domani con la Tempo di Sport dalle 2 alle 3, venerdì stesso orario per Palla Spicchi. Buona serata a tutti.